Carlito. È il volto di mio padre al cimitero che è risorto dopo il terremoto negli Abruzzo, il passaporto, la musica di adesso, un mare senza porto, l'unica invenzione che vorrei, il teletrasporto. Il talento che possiedo è sprecato solo in ombra, solo per riempirla con aggancio e conoscenze mi spedisce nella tomba. Tu vuoi tutta la torta, ma torno con Carlito e di nuovo sono in onda. In questa tiritera sono il re della scacchiera, ho letto il mio destino nella testa fattucchiera, cercando una chimera con in tasca un bottiglione. Mi scappa da pisciare su queste banconote di parole. Ho perso il lume della mia ragione. Forse non ho l'indole del figlio di puttana che cambia ogni stagione, fregando anche il suo prossimo. Cambia anche gli amici per far vivere il suo nome. Se il mio corpo è pieno di allarmi, tu stai attento a dove puoi toccarmi. In questo panorama senza trama, Dalai Lama, cannibale spettrale, ti sputo come un lama. Sono allucinato da questa sirena, mi cuoce a fuoco lento, maledetta la mia strega. Sono un terzo incomodo, serve un quarto incomodo, perché un terzo incomodo è scomodo se solo tu fai la coda per vedermi ancora su nella soffitta dentro un vaso di Pandora, nella canfora come una gemma in un'anfora. Ma è una parabola, il talento che possiedo è sprecato solo in ombra, solo per riempirla con aggancio e conoscenze mi spedisce nella tomba. Tu vuoi tutta la torta, ma torno con Carlito e di nuovo sono in onda. È una filastrocca, tappati la bocca, io sono un artista, tu sei una mignotta, come un trapezista del circo Togni, mi fai volare credendo nei miei sogni. Guarda questa storia com'è cambiata, non ho un amico che non pensi alla sua fama, io sono al 30° LP della saga, senti la mia merda quanto si propaga. Bocca macchinetta, ma ciulla il tuo cervello, da quando 29 anni penso solo a quello, con la mia fanciulla che mi stuzzica l'uccello. In ginocchio col mio disco disperato mi sbudello, la mia vita adesso è come Pollicino, un altro sasso dietro un altro pino, spazzacammino dentro mille risa, con gli occhiali neri grandi come Arisa. È il volto di mio padre al cimitero che è risorto dopo il terremoto negli Abruzzo, il passaporto, la musica di adesso, un mare senza porto, l'unica invenzione che vorrei, il teletrasporto. Il talento che possiedo è sprecato solo in ombra, solo per riempirla con aggancio e conoscenze mi spedisce nella tomba. Tu vuoi tutta la torta, ma torno con Carlito e di nuovo sono in onda. La la la la la la la la la la la.